quando potevamo comprare l'argano. Dicevo, quanti alberi sono passati sotto i ponti. Eccolo qua. Prova. 1, 2, 3. Prova. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Prova. Prova Mike. Prova Mike. Prova Mike. Prova Mike, prova Mike, prova Mike. 1, 2, 3, 4, 5. Оборота предлагаем следующие услуги. Курьерская доставка по СПб и Ленобласти. Курьерская доставка по России. Сканирование, копирование и распечатка документов. Услуги хранения. Отправка документов Почты России. Работаем. Понедельник, пятница с 9 до 21. В субботу с 10 до 9. Автоцентр «Прогресс». Вход со двора. На вопрос 8-911-922-7827. Mamma mia. È una domenica piovosa, brutta. Sì, infatti, tra ieri e oggi una brutta giornata, anche piovigginato prima. E io stamattina mi sono fatto il bagno, sono sceso col cane, ha piovuto, mi sono fatto il bagno. Ma non è che c'è quel giubbotto che è di lusso, quel Nike qua, non ce n'è, non entra un goccio d'acqua, ti lascia asciutto sotto, si bagna lui, ma a te non ti fa bagnare. Lei è buono. Allora, sto usando il 5005 già. Il microfono originale era inutilizzabile perché c'era scariche e non usciva in radio, era terrificante. Come puoi sentire, questo è il mic che ti ho detto un attimo fa, il suo originale. Una spruzzata di CRC nella presa microfonica, una sulla spina microfonica e una sul PTT interno, che è piccolo piccolo. È quasi tutto chiuso il PTT, però c'è una fessura e il CRC passa, quello secco. Dalla notte al giorno non ha più una scarica, perfetto. Vabbè, miracoloso quell'affare. Sì, ma non capisco il perché questi apparecchi adesso fanno questi difetti qua. Prima di queste cose, boh, a me non me ne succedevano mai con gli altri apparecchi che si usavano prima. Adesso con questi apparecchi nuovi ti dà sempre problemi di microfono, anche con le, come si chiama? Non ho cavato piedi, col S980. Usciva a scarica il microfono, non ne ho cavato piedi, cosa ho fatto? Gli ho cambiato l'interno e così ho detto o il PTT o è la capsula, una delle due, li cambio tutto quanto e via. Gli ho cambiato tutto l'interno, li ho messo all'interno di un altro microfono con capsula eccetera eccetera. Sì, già. Il controllo qualità va scemando con gli apparecchi moderni. Diciamo, vabbè, ci sono microfoni che comunque vanno sempre bene, tipo quelli dinamici che però hanno un PTT internamente, uguale il PTT è enorme, cioè i contattini sono già grandi. Ma quando ho visto i contatti di questo, che poi non è che li vedevo, che erano, ma è microscopico il PTT, quindi basta un decimo di millimetro di ossido che già ti sta bloccando tutto, uno ti sta compromettendo tutto il mic, capito? Vai, va, cuovali. No, è pure tu lo sai. Ne vuoi, ne mucate io. Ciao Gianni. E allora? Non sei andato a ciocca oggi? Cazzo, mi fa da più l'aria, eh. Come non ne ho messo? Tutta la settimana non ne ho messo. Basta un po' d'acqua ha fatto. Adesso pure la lista da Luacchia. Già come faccio? Senza un mezzo, prima che ci andavo. E già ne so posti, ce n'è un bel. C'è da camminare, ma tranquillo che te la fai, te la fai Luacchia. Ma io sono un posto di Lumacconi. Cavolo, che in 5 minuti abbiamo riempito 2 buste piene, ne trovavi anche 12 alla volta, io ho mai visto Lumacconi così tanti. E ora come vado io se ce ne sono un bel. A voi. Ne ho fatto in 2 volte in Bari 50-60 dozzine. E a me nulla, no. Tu sei comane, no? Tu vai sotto il ponte, quando vai a farti gli affari tuoi, ti rifai lì. Sì, vai là. Ciao Natà. Tu sei? Natali, sto usando quello lì, quello che interessa a te. Il mic è bastato una spruzzata di CRC, è tornato come nuovo. E è quello che sto usando adesso, Bellissimo. Te lo incarto? Incartalo. Come preferisci, la carta oleata o la carta quella tipo pane? No, quella di pane. Comunque la capsuletta è dinamica qui, però è piccoletta, è un po' vile come capsula, non è quelle belle dei 3009 e di tutti gli altri apparati. Comunque, come mi sentite? È passabile, è accettabile? Cioè, sto uscendo in radio, sì. Gianni, Luca, com'è la modulazione? È passabile? Sì, perfetta. Gianni se farà du. Io ho stato live. Mamma mia, un bistecco. Beh, non ci sente più. Già ci siamo noi, già. Ciao Natali, io che devo fare l'ascoltore? Ah, così è. Vabbè. Io già parlo ogni tanto, dai. Mi piace ascoltarmi. Allora ascolta cosa vuoi ti dica. Questo Luca fa le lumache, non me ne dà a me, ma ti faccio mangiare brodino di mamma a te. Chi è che ha fatto le lumache? No, sono andato a lumache, la seconda di me sono 3 anni. No, io adesso vivo in Germania. È 3 anni che non vado a fare la sparaggia. Ah, io a Pasqua c'ho un po' di gamberi. Via da te. Io porcetto e agnello sicuramente. No, gamberi. C'ho anche l'insuffiata. E noi faremo lo stesso tipo. tipo forcetta e agnello. Peso troppo, sto pesando troppo, bisogna stare leggeri. Posso io chiamare anche il macellare? Cazzo, sono già arrivata a 72 kg, gatta. Bubu. Eh beh, meno male che hai ripreso peso, Natali. Ti ricordi quel periodo brutto che eri molto sottopeso, avevi preso un sacco di... perso un sacco di grassi? Sì, e pari un fantasma, 52 kg pesavo. Ma era dopo un'operazione per caso? No, quando sono uscito dall'ospedale, che ho avuto quella pancreatite, mi ha fatto dimagrire fino a 52 kg. Ma ne mi dagate pure una ghetta senza magna, quando sono entrato in chino, non potevo mangiare nulla. E poi mi davano brodo di mammo, dopo. Più di quello non è che potevo mangiare, no? Ehi. Mamma, i turchi, inventatevi qualcosa da dire che vi ascolto. Voglio fare l'ascoltone io oggi. Oh, beh, già, poi quanto siete rimasti ieri notte? Io poi vi ho salutato e sono passato altre cose, dai. Gianni lo chiama e non risponde oggi. No, adesso che vuol fare l'ascoltone, adesso. No, sono impegnato, c'è cosa. Com'è il bip malvagio? L'ho regolato tipo quello di ieri, tipo 1000 Hz, 1050 Hz, 100 millisecondi mi pare. Bellissimo, Fabi. Sono andata da mia madre, ho detto mamma, di lusso. Bello era quello dell'LMS 200, oppure quello dell'Egain Quinto, il 2795 di X, che era l'unico a avere quel bipal, quello di Modigliani, te lo ricordi, faceva tui? Non ce l'avevo io quello di Egain Quinto, ho avuto anche l'LMS 200, normalmente che l'ha aggiudato, cazzo, di subire un apparecchio bestiale. Per quanto la scheda fosse la di quella serie Cybernet, e già ne prendevano i colpi con le... come i multimode, i colpi ne prendevano. Io ho avuto anche il multimode 3, certo, e pochi sia voti, però pigliava colpi di l'altro mondo. È vero, bello completo. Tanti canali, tutti i modi di emissione, così, però caspita, sentivi un battimento dalle stazioni forti, ciu. I colpi dell'altro mondo pigliava, e se non la LAN 48 che avevo in macchina, cazzo, passavo vicino alla rotonda lì in via Giovanni Pascoli e sentivo Gio Maria in tutti i canali. Invece poi con l'EPT 3006 tipo 3009, il 360 FM, il 3009, tutte quelle serie lì, Pluto, c'è stato un netto miglioramento, niente più battimento, niente più splatter, intermodulazioni, capito? E erano filtrati meglio. Chiuso lo squelch, così almeno rimane zitto. Sì, se no è una voluta, aspetta che ti faccio sentire. Vediamo se lo fanno sentire il bip che dico io. Che Gianni ce l'aveva la Game Quinto, ce l'avevamo assieme. Uno io e uno lui. Fabia, il bip è scusciminiato la Game Quinto. Qui faceva. Senti questo. Che brutto! Che è brutto, lascia quello con la nota singola, è brutto, corto, come piace a me. Sto cercando quello dell'Egain Quinto, però non è l'LMS 200, aspetta, non se lo trovo, no. Aspetta, questo è l'Egain Quinto. E poi questo è il... Oggi sto giorno piovendo, stare qui ci dovevo andare in un posto, nisba, neanche oggi, non si può fare nulla. E questo è prolungato. Abbiamo un mondo. Però chi mi dà voce era? Tutti i generi. Quello della Game Quinto. Quelli erano tutti apparecchi che avrei voluto avere, solo che come facevi? L'LMS 200, Leghin quinto, poi c'era il famoso Tristar 848 che poi era simile un po' al multimode come comandi. Mimì, c'è quella bestia sull'11. Vuoi ci vuole o? Oh signore. Boh. Tutti fuggiti. Demotivati. Che fine ha fatto Gianni? Mettermi la splatter. Sì, c'è quell'animale americano lì, sull'11, sta sempre ragliando, beh, una cosa deleteria. Allora. Mi sa che mi faccio un caffè, altro che, e qua mi sto bioccando pure. Oh, iaia. Quanti cani ci sono che sono a canali 11, sì. Questi effettusi, questi vittusi, casino. E ci due animali, Marco, oggi è due, così è due, tre, e cinque, allora due, in teoria dovrebbe arrivare il 5, c'è da vedere, che ho fatto un ordine, dopo quando mi arriva, no, mi sarà accorso. Un ordine da dove? AliExpress? No, non compro lì. Su eBay. A proposito, è un incentivo tra l'altro da dove vanno? Vediamo un po'. È un incentivo introdotto dal governo per utilizzatori del trasporto pubblico. Che consente di ricevere un contributo massimo di 60 euro per l'acquisto di un abbonamento annuale o mensile. No, questo non mi dà risa. Sì, su AliExpress abbiamo passato un periodo di casini, perché allora quando AliExpress spedisce con questo Kainao, all'arrivo in Italia veniva preso in carico da questa specie di azienda, chiamiamola azienda, chiamata Fulmine Group, che è un'azienda siciliana. Allora, se entrava in mano loro, ricordati quelli mandati dal Kainao dalla Cina, il pacco scompariva, oppure risultava consegnato e tu non avevi visto niente. Praticamente si stanno appropriando di un sacco di pacchi, AliExpress ha avuto una marea di recensioni negative, ma non per colpa di AliExpress in sé, per colpa di questa azienducola di futtivecci, che sta prendendo in carico i pacchi di Kainao, del corriere Kainao cinese, e poi scompaiono e tu non li vedi, capito? E c'è gente incavolata nera, ha fatto delle recensioni terribili, volevano fare anche una class action all'Agicom, oppure anche una denuncia alla postale, perché quello è proprio furto, è sottrazione di corrispondenza, una cosa mai vista. E dalla storia una cosa che costava un po' di soldi spariva. Sì, sì, io vabbè, ho comprato una fesseria da 10 euro o meno, ma gente che ha comprato anche centinaia di euro di roba e se l'è vista scomparire, oppure risultava consegnata e tu non ne vedevi roba. Invece pare che se tu chiedi, cioè se trovi la spedizione da AliExpress Standard Shipping, quella dovrebbe arrivare, dovrebbe, però siccome c'è questo periodo di casini io non sto più comprando niente là, non mi fido, oppure devi chiedere al venditore di non spedire con Kainao, sai che Cainaro prende in consegna questa azienda molto molto ambigua. Ovviamente un'azienda del sud siciliana poteva essere una buona azienda, no? Un'azienda di ladri sta risultando. Ma io compro su eBay. Allora, non è possibile fare l'abbonamento. Consulta lo stato di richiesta. No, no, niente. Non si può fare. Ma ti volevo dire, e lì non sbaglio. Sì, praticamente, già sto uscendoci, è un'azienda di poste private, no? Che è nata così, è nata ieri e sta facendo già Bolutu. E poi se li chiami per tracciare il pacco ti rispondono anche in modo scortese, quasi ti prendono in giro, mi. E sono scortesi, gente che non dovrebbe avere a che fare col pubblico, assolutamente. Speriamo che passi questo periodo, perché io di rischiare soldi, anche se pochi, ma io voglio una cosa da 10-20 euro, voglio che arrivi, non è che se la devono rubare questi, capito? Io sapevo anche il codice, il tipo di pacchetto, se ha un certo numero, ci sono delle lettere e numeri, se ha un certo codice, se lo beccava questa azienda ambigua, capito? E sempre, a mani loro non ne vedi più. Ma non è una cosa giusta, cioè, se io vado a ordinare una cosa da 200-300 euro, cazzo, mi sparisce, no, ma non posso blu più. Oh, ma per carità, questi non è gente adatta a lavorare, poi non hanno corrieri, cioè che servizi fanno? Qua non fanno niente, va bene in Colle di Sicilia, seppure se lì lavora. Però sono dei lestofanti, Di lestofanti, ho detto, rispondono male, è proprio gente che non ne ha gana. Oppure c'è il limite, quasi ti prendono in giro, no? Come dire, che hai sbagliato tu. No, meglio, allora persino meglio i vecchi Bartolini, SDA, tutti gli altri, almeno il pacco te lo portano, magari te lo lasciano nel portone, però te lo portano. Ma per carità, cazzo. Vabbè, comunque. Allora, su eBay ogni tanto mi arriva roba che non funziona, la rimando indietro, qualche soldino l'ho perso, cioè tipo la spedizione, la rimando giù indietro, capito? Oddio, per carità, che... Adesso vediamo questo che arriva, il pezzo, me lo stanno vendendo come pezzo originale, voglio vedere se c'è il service pack. Sembra la scatolina originale, vogliamo più vedere. Luce, vabbè. Lascia vedere qua. Aspetta un attimino. Perfetto. Capito, ma è un casino. Lo fa un carico. Un casino questi. Va bene, infatti anch'io sto prendendo più da eBay, un po' meno da eBay, un po' calato sono come interesse di eBay, sono passato un po' da Amazon, anche se certe volte le cose le paghi di più, un po' di più, è che ti arrivano subito, capito, in proprio 24 ore, cioè 48 ore arrivano. Sì, però ho notato che stanno vendendo roba danneggiata. Allora è un casino, vogliamo vedere un video, vogliamo vedere il malfunzionamento dell'oggetto, generalmente di balle qua. Andai alle poste, spedirlo, a spese tue, soldi persi. Ehi, ma il tempo anche che ti fanno perdere, cioè di vendere le poste, magari fare fila per dare il pacco. Per carità. Poi una cosa di AliExpress però un po' ambigua è che, allora, tu non ricevi un pacco, no? E contatti AliExpress dicendo il pacco non ti è mai arrivato. E loro ti chiedono, come quando è difettoso, no? E vogliono la prova che il pacco non ti è arrivato. E uno ha detto giustamente, ma che prova dovrei mandarvi se non ho ricevuto niente? Cosa vi faccio vedere? Il pacco vuoto che non è mai arrivato nemmeno. Cioè... Vabbè. Adesso mi ricordo il periodo quando avevo ricevuto il Galaxy con un mattone dentro, sono serio. Non mi ricordo che l'avevo ricevuto, non mi ricordo, forse gli avevo più rum. Ah, non tu, sì, Gianni una volta avevo ordinato un Galaxy che doveva essere a un prezzo ottimo, c'erano delle foto, eccetera, e poi è risultata una truffa. Però che ci fosse il mattone dentro non credevo, credo fosse tipo vuoto il pacco o che non gliel'avessero mandato. Vediamo se l'ascolto, Gianni c'è ancora? Niente, Gianni sta ciuppando. Cioè, ma io dico Marco, come cazzo si fa a vendere una TV alla legge? Smart TV 32 pollici 100 euro. Faccio da tramite, vende Smart TV HE 32 pollici con telecomando da controllare perché non funziona, per info privato 100 euro non funziona, ma quelli da capo, porta un cazzo a coso, come si chiama, autoparco. Sì, infatti ormai, che ne so, tu vai in qualsiasi Eurospin, Lidl, da Mauris, cioè una cosa folle, vai lì e trovi 32 pollici, nuovo, anche se rimarca Seleco, se rimarca Saba, in realtà il marchio è stato comprato, penso, da cinesi, no? Però un 32 pollici nuovo 160 euro, se non meno addirittura, 150-160 euro te lo porti a casa nuovo però, e in teoria una garanzia sommaria ce la dovrebbe avere, magari se non funziona appena lo metti te lo sostituiscono, almeno spero. No, ma infatti non ha senso, guarda che ho visto di peggio, gente che si vendeva rottami presi dal mondezzaio con ancora la terra sopra, tra cui un baracchino ho visto, a prezzi quasi da roba nuova. Ma infatti, così è un casino, è un casino da metà basta. Ah, me lo ricordo ancora, ed era lo stesso che vendeva questo baracchino proprio preso da qualche cimitero, proprio ossidato, con la terra ancora sopra, e poi vendeva anche dei copertoni di macchina, no? Gomme per la macchina lisce, sporche, con la terra sopra, ma come fai? Manco la faccia di metterlo in vendita. Poi erano usurate, cioè non è a dire che erano gomme nuove, magari sporche ma nuove, no, quasi lisce. Vabbè, sui bei questo, ecco. Sì, ma infatti. Adesso, diciamo, io vedo che vanno televisori rotti, con display danneggiato, 150, ma che cazzo te lo prende? Ma chi te lo prende? Nessuno. No, ma infatti, magari quella non è la punta dell'iceberg, me. Cioè magari loro dicono che il display è rotto, invece c'ha problemi più grossi sotto. E una volta che accetti il pacco, cioè che paghi, e che il pacco ti arriva, quelli non ne accettano più restituzione. Cioè anche se tu glielo rimandi indietro, lui rifiuta il pacco e ti torna indietro, capito? Se ti torna pure, tu hai perso i soldi e il prodotto anche, che tanto non funziona. No, infatti io prima di comprare una cosa guardo se accetta la restituzione entro 30 giorni o 15 giorni, quello che è, se no non le compro, e più di uno restituzione non accettate, tieni il dito. Però vedi, almeno c'è chi lo scrive, no? Cioè, io ti sto vendendo una cosa, magari fai che sia funzionante, lui una volta che la spedisce funzionante non ne vuole sapere, però lo scrive ed è corretto, ma quello che magari ti dice che funziona, te la manda, è rotta, poi magari gliela spedisci indietro e rifiuta il pacco, e praticamente non glielo puoi restituire perché lui rifiuta il pacco, capito? Anche se dice restituzione 30 giorni, loro basta che rifiuti il pacco e non ti restituiscono i soldi, capito? Sì, però se fai l'acquisto c'è scritto te lo deve fare, infatti io non acquisto, io controllo bene prima. Ti faccio un esempio, quando mi serve una scheda TV, no? Che magari viene levata da una TV danneggiata, dal pannello LCD danneggiato, no? Le recuperano e le mettono in vendita, però io guardo se ha la restituzione e molti non la mettono. Restituzione non accettata, io cosa ne so se la scheda è falsata o no, non lo posso sapere. No, lì è un'incognita, Luca, perché allora uno prende nuovo, roba nuova con garanzia, pure lì è una roulette russa, è come comprare macchine usate, Luca. Compri una macchina usata, da questi venditori che hanno questi stanzoni, no, queste camere riempite di macchine comprate privatamente da lui. Sì, sì, a posto, poi cominci lì, l'idroguida non funziona questo, non funziona quello. E poi, ciao, una volta che hai pagato, ciao. Ma infatti, lasciami lì in culo. Già sto attento per quello, non ho problema. Sto attento prima di acquistare. Vabbè, i venditori che vanno cose nuove, certo che hanno la restituzione accettata. Cioè accettano la restituzione, ecco. E se no non ha senso. Cioè magari mi arriva questa cosa danneggiata, magari cosa ne so. Ma sai, una volta arrivato questo display l'ho dato dall'estero. Cazzo, giramento di ballo, ho pagato poco. Tipo 20-25 euro, non so, non mi ricordo. E niente, l'ho piazzato, era danneggiato, si vedeva male. Allora gli ho mandato un messaggio in italiano, lui si è tradotto in inglese, mi pare, se non mi ricordo, vabbè. E non mi conveniva più a rispedirlo indietro, mi costava di più a rispedirlo indietro che... Cioè che alla fine me lo sono tenuto io, ci ho perso soldi, questo cazzo di fede, dovrei averlo ancora, buttato lì dentro il mobile, allucinante. Ma. Sì, è vero, è vero. Poi ho notato, dalla Cina la spedizione costa poco, tipo AliExpress, tipo quegli altri siti di robetta cinese, no? Allora non costa quasi niente, certe volte è pure gratuita, ma se tu vai a restituirlo in Cina, vai alle poste a dire, lo devo spedire in Cina a Pechino, per carità. Lo so, è vero, è vero, è proprio vero. Perché magari loro spendono poco. Poi se tu lo mandi da qua in centro vai a rimanere un patrimonio. E io. Poi è un peccato anche, io compravo dall'Inghilterra, no, articoli particolari. E l'Inghilterra è uscita all'Europa, mentre prima la spedizione la pagavi, che ne so, quei 5,99, 7,99, insomma, sotto i 10 euro, o quasi, o intorno ai 10 euro, adesso roba di 30 più euro di spedizione, anche per un paio di guanti, una cavolata, 30 euro di spedizione, e chi compra più dall'Inghilterra? Mi costa più la spedizione dell'articolo. Ma infatti non conviene alla fine. Non conviene. Ma c'è un adesso dei video qua, vediamo. Deve veramente chiamare il tuo abbetto, perché ti levo l'occhio. No. Non è di dichiarare, non devi chiamare più abbetto, perché ti levo l'occhio. Perché tu non hai ragione, ragione hai io, perché io ti so colosse, se no ti sbaraglio tutte cosce, ti sbaraglio. Da stare, non va esito, non devi chiamare più a petto, perché vedi fisci io video, i sacrifici fisci io mille stelle. A petto. Mi siete questo qua. Ciao ragazzi. Cazzo, allucinante, gli yacht questo qua, allucinante. È bello TikTok, Marco. Una volta ce l'avevo installato, poi lo guardavo poco e l'ho tolto. Hai visto il casino? Siccome, allora, chi è titolare di aziende, chi lavora in aziende pubbliche o statali, insomma, vogliono togliere TikTok perché pensano che i cinesi possano spiare attraverso l'applicazione, fare tipo spionaggio industriale, roba del genere. Non ho capito, scusa, ma... Che TikTok lo vogliono far togliere a tutti i dipendenti pubblici statali perché temono che la Cina faccia spionaggio industriale e non solo, attraverso TikTok, che raccolga dati in modo indebito. Però non sono affidabili, mi dispiace dirlo. Vabbè, comunque acquisti miei sono LCD, il telefono, qualche pannello LCD di computer, così. Gli acquisti miei sono quelli. Chi sono? Allora, televisori ce ne sono tanti, ma alla fine chi è che produce pannelli LCD per tutte le marche? È Samsung per caso tuttora? No, Samsung non è, io non ne ho mai comprato. Non lo so, Marco, guarda, non lo so. io molte volte, più di una volta gliel'ho adattato di un'altra TV, capito? Sono riuscito ad adattarglielo e niente, ha funzionato e tutto sta funzionando. No, avevo sentito una cosa del genere, che a livello industriale, cioè Samsung produce i display per un saccaccio di marche di televisori, un sacco, cioè magari un televisore Philips, che ne so, Fonola, se esiste ancora, o altre marche, però il pannello è fatto in fabbrica dalla Samsung, non so se sia vero, provasi pure, che si sia specializzata in display, in pannelli per le televisori plurimarca, da. Sì, ma la maggior parte delle TV sono i Samsung che vanno molto, sono i migliori. Vediamo un attimino, grazie, si vediamo a me su questi TikTok. Oh, yeah. I Samsung sono i migliori. Io avevo come marca Saba. Sì, l'ho vista in vendita. Seleco, Saba, però non è più la Saba di una volta, ricorda. Credo che i marchi siano stati comprati tipo da cinesi e loro vendono praticamente televisori fatti in Cina, che quasi tutti ormai sono fatti in Cina, con i vari marchi di una volta, quelli storici, che però non sono più italiani, tipo Seleco, e ormai ci siamo venduti anche le chiappe ai cinesi. E occhio ai cinesi, perché se questa cosa della tensione Ucraina e coso, cioè, i cinesi sono pronti a dare una mano ai russi, mi te le immagini, che vanno contro l'Europa. Ci manca solo una guerra, me. Ma se vanno in guerra contro di noi, la prima cosa che facciamo è andiamo a scannare i cinesi, nei negozi dei cinesi, subito. E prima Saba era Saba, adesso è Saba Gassa. Adesso la Saba l'hanno messo il papà sì. Cazzo, mi nomi a Gianni, hai dato un sciapizzo. Lo vedi, qua cuomo. Ma è venuto a gente a casa, dai, io mi sono dovuto a sentare. Ah, pensavo che era andato a fare l'amore. Ho già, a te, quando era successa quella truffa del Galaxy, ti è arrivato un pacco vuoto oppure non ti era arrivato, o ti era arrivato col mattone, ci chiedevamo? No, niente, non è arrivato nulla, né a me né a Maestrale. A chi era arrivato con un mattone dentro? Non mi ricordo, forse a Claudio, non me lo ammetto. A Claudio, mi pare. Però per dire, si sono appentati a fare il pacco e a mettere il mattone, spendendo per spedire il pacco. Potevano anche non spedire nulla, per dire. Vabbè, ci hanno guadagnato lo stesso. È fatto per sfregio, mi, come dire, spendiamo i soldi della spedizione, però ti faceva arrivare il mattone, te le immagini? Quello che c'era un negozio nel sud Italia che era così, mi, era un negozietto che aveva truffato anche la gente locale e faceva truffe tramite eBay e l'avevano pluridenunciato, ma questo continuava a truffare all'infinito, come se le denunce non lo toccassero. Il problema è che poi le denunce, cioè gli anni di eventuali detenzione, li accumuli, poi quando fai, mi pare, 2 o 3 anni, te li fatti assieme, non so quanto gli conveniva. E anche le Iene se ne erano occupate, mi pare, anni fa era successo. Bisognava andare a trovarlo di persona. E infatti la gente locale è andata di persona, capito, a trovarlo, e quello fuggiva, cosa doveva fare? C'è gente che vive così di espedienti, ce ne sono tanti. Io ho salvato un amico per miracolo, perché quella tuffa del Galaxy era da pagare con la West Union, era un metodo di pagamento che io non avevo mai fatto, e praticamente questo amico da Roma mi ha telefonato: ah già, ho trovato la macchina fotografica Canon D60 come ce l'hai tu, che costa 1300 euro a 900 euro, gli ho detto, con che carta la stai pagando? West Union blocca tutto, non è fare. Il mio amico dice: l'ha già presa, l'ha già ordinata. Ho detto: guarda che sono dei truffatori, gli ho spiegato tutto. Cazzo, l'amico l'hanno fregato, ci hanno fregato anche di più, perché ho preso una macchina superiore ancora e costava ancora di più. Lui è quello che si è salvato, come ha fatto? È riuscito a bloccare tipo si bonifico quello che era in tempo. Non l'aveva ancora fatto, doveva andare a farlo, stavo per andarmi a fare il bonifico, l'ho bloccato di colpo, di proprio per miracolo, se no l'avrebbe ordinato anche lui e ci avrebbe rimesso 900 euro, guarda che è un'organizzazione che fa i soldi così, capito? Me l'ha spiegato quello della polizia postale, ha detto che sono organizzazioni grosse che si spostano da un punto all'altro, ritirano i soldi e poi si spostano, hanno delle carte prepagate solo per rispondere e poi praticamente le buttano via, sono carte inglesi e vanno un po' da tutte le parti del mondo, è un'organizzazione grossa. Dice loro lo sanno che prima o poi li mettiamo i ferri, però se quando li mettiamo i ferri hanno una vita da nababbi, vanno in alberghi prima categoria, macchine grosse e via dicendo. Sì, è così. Così fanno anche quei truffatori indiani o Bangladesh, però truffe online diciamo di altro tipo. Tipo ti chiamano, fanno finta che sei il direttore della banca, che è successo casino, che non so cosa, però ti invitano sempre a pagare un tot per fare una certa cosa, capito? E poi li sgamano tanto. Lo so, ma se quando li sgamano, come ha detto quel poliziotto, fanno vita da una babbia, ha detto che sono organizzazioni che sono veramente, guarda che io avevo guardato, era uno West Seller, ci aveva costruito tutto da solo, le avevano messo il massimo delle stelle su eBay e in più sono andato sul suo sito e c'era tutto il corriere che usava per fare spedizioni eccetera eccetera, c'è tutto un sito particolare, avevano studiato tutto. Marco, io sono andato, non è che sono uno sprovveduto, sono andato a controllare tutto, però in ogni caso mi ha fregato lo stesso, perché Maestrale mi ha detto ti interessa, stanno dando due Galaxy Saturn Echo mai usati, avanzi di magazzino ancora col cartone, e ci regalano anche l'MB più 4 a usare col Galaxy oltre al microfono normale, e ci danno tutto per 200 euro. Ho detto io prendiamoli subito, prima però se andiamo a vedere, siamo andati a controllare tutto, lui ha detto vabbè faccio mando mia moglie a pagare tutto quanto, poi mi telefona, mi fa oh già non lo sa che questa roba non prova a telefonare, non rispondono, e da lì mi sono già preoccupato. Non rispondono, ho provato più volte, non risponde nessuno, dicono che dice che il numero è inesistente, eccetera, eccetera. Beh, fatto sta che abbiamo aspettato dai 5 a 6 giorni e poi siamo andati alla polizia postale e ha detto così, capito? Ci hanno detto che loro fanno vita da nababbi se quando li trovano. Teia. E magari vanno a rifugiarsi in paesi dove non c'è estradizione e non li puoi nemmeno, capito, portare in Italia o dove devono essere condannati. Poi questo Western Union è praticamente un metodo di pagamento che non ha tracciabilità, quindi tu non puoi capire dove sono, dove erano ritirati, niente, non ha tracciabilità, è un metodo che loro hanno sgamato per fare questa truffa. Sono ben organizzati, non è così, no? E una volta ci avevamo preso 400 euro in due. Vabbè, vi è andato anche bene, voi avete preso un maracchino, ma c'è gente anche per questioni di fregature, imbrogli di banche che ha perso migliaia di euro o decine di migliaia di euro. Quello sì è brutto. Marco, per chi lavora che 200 euro sono tante, dai. Chi ha uno stipendio 200 euro e poi lo stesso fatto di essere preso per i fondelli, ti senti come un marengo. Lo so, vabbè, brucia, è gente che non ha scrupoli, non ha scrupoli di sorta, e poi bello che poi magari si fanno la pena, pochi mesi di galera, poi riescono, vanno in altri paesi e continuano a farlo, perché vivono così, come, vabbè, non voglio fare allusioni al Sud Italia, lasciamo perdere. Vabbè, comunque, io per dire, c'era un Cambridge 140S che stavano vendendo 270 euro ed era diciamo apprezzabile come prezzo, funzionante, tutto quanto, tutto in perfette condizioni, poi vado a vedere Napoli, boh, basta, fatto io. stesso io quando su eBay vedo venditore Napoli, no, non mi fido, anche se c'ha stelle, quello che vuoi, no, è più forte di me già, è inutile. Anche se non si può fare tutto nel mondo facile, magari è la persona più seria di questo mondo, però purtroppo c'è quella fama in quella zona che mandano i mattoni al posto degli apparecchi. In televisione avevi mai visto la truffa? Tipo tu vai all'autogrilla, no? Sei in macchina, magari stai facendo benzina, ti si avvicinano i soliti, il solito, ti fa vedere un computer, te lo fa toccare, te lo fa provare sul momento, e poi come lui lo rimette in scatola che tu stai pigliando i soldi, che sei seduto in macchina, c'è il compare dietro l'angolino che gli dà un'altra scatola però vuota o con mattoni, guarda, sono lesti nel fare la manovra, non te ne accorgi nemmeno. Sì, col mattone, l'ho visto su internet, c'era il tipo che stava cercando, anzi sono andati con quelli che fanno recuperare i crediti, non so se li avete visti, sono andati con quello lì perché questo qui stava al rifornitore e dopo aver fregato a questo qua che doveva fare il regalo al nipote che si doveva laureare, gli voleva comprare il cellulare, e praticamente ha avuto il coraggio dopo aver fregato tanta gente di restare sempre lì con il rifornitore a fregare la gente che passava, capito? Sento un'alternata giù, chi è? Io la sento. Sì, come un segnalino un po' basso con una forte alternata peraltro. Vediamo se poi se c'è qualcuno che vuole entrare. Ehi, già, l'hanno fatto vedere, non so se se ne hanno occupato gli Eni o se c'è notizia o quei servizi là. Però, ecco, uno che è di passaggio all'autogrill, vede uno sconosciuto che ti vuol vendere a un prezzaccio un computer portatile nuovo, non ti puzza un po' la cosa? O che sia rubato, non ti viene in mente? Io non lo comprerei a priori, assolutamente, io compro in negozio, oppure online dai siti affidabili, quelli ufficiali, capo. Chi è che vuole entrare avanti? Vabbè, capito già, questi che comprano roba per strada, come fai a fidarti? Se ti, anche se te lo dà, magari sicuramente roba rubata, per quel prezzo, cioè non c'è da fidarsi. E poi ti trovi magari che se ti ritracciano ti denunciano per ricettazione, capito? Per avere comprato roba rubata, è delicata la cosa. Sì, sì, è già successo anche a Sassari, aveva comprato roba di B, l'hanno denunciato a questo qua perché ha comprato il telefonino rubato. Lui non sapeva che fosse rubato, ma l'ha preso a un prezzaccio, un telefono buono, doveva anche immaginarselo, capito? Ma vabbè, comunque, quello che conviene è comprare nei negozi e basta, dai privati non conviene molto comprare, uno perché ti possono dare fregature e apparecchi che non funzionano bene, eccetera, mentre nei negozi c'è la garanzia, se non funziona bene glielo rispedisci, tutto male che va, sarà una rogna, però almeno c'è la garanzia, l'apparecchio, e te lo mettono a posto. Mentre invece se te lo vende un privato ti dice no, funzionava, sai come sono. Oh, a me era successo, allora io avevo l'8009 Yaesu, no? Che faceva WU, cioè in FM solo, aveva i 29, i 50, poi la V e la U, perfettissimo, usato, tenuto come una reliquia, perfettamente funzionato, usato anche la sera prima per ascoltare, uno l'ha voluto comprare da, cos'era, eBay? Mi pare eBay, l'unica vendita che ho fatto, e poi non ho più fatto. Bello, lo metto, c'è, lo fan cuscinetti, ci ho messo tutto il materiale ammortizzante, fatto il pacco, perfetto, quindi anche se lo sbattevi lì non poteva rompersi nulla. Scatola originale, tu già lo sai come sono io, no? Io lo spedisco, gli arrivo il pacco, dopo 24 ore mi contatta e dice ma c'è una manopola del volume da una parte, perché ne ha due, no? Una a sinistra e una a destra, per le due bande. Dice che non funziona. E io però gli ho detto, ma scusa, io mi dispiace, ma io ho testato bene, l'ho usato la sera stesso, l'ho spento tutto. Adesso non so se questo l'ha fatto in buona fede, o che abbia sbagliato lui a toccare qualcosa, oppure che durante il trasporto si sia, che non abbia lanciato il pacco per aria, sai come fanno certi corrieri, no? Li sbattono a terra. Fatto sta che qua era perfetto, questo diceva che o stava tentando, invece non era in buona fede, stava tentando di avere una parziale restituzione di soldi. Magari ti, che ne so, poteva chiederti, che ne so, solo 50 euro indietro, ma mi dispiace, ma allora dalla volta, visto che non, anche se viene roba buona poi si lamentano, allora non vendo più niente online. E beh, infatti quindi c'è sempre chi ci vuole giostrare delle cose, no? C'è sempre il furbacchione di tutto. Tutto magna magna, lui lascia per perdere, ma per carità. Poi sto cavolo di oggetti che fanno danneggiati, poi ce l'hai danneggiato tu. Poi sai cosa, la fregatura anche. Quando faccio un acquisto, io ti faccio un esempio mio, che compro un display, una volta che tu ne levi il sigillo, poi sei fregato, che funziona o non funziona, te lo deni, poi costa pure 300 euro. Ma non ti danno alcuna forma di garanzia su quella roba, Luca? No, prima devi fare il test, magari lo testi e funziona, poi magari le VCG non funzionava più, e si fu tutto. Eia, adesso vediamo se è rientrato, attenzione, Natalingua, ci sei? Sta cucinando a quest'ora, dai, per la cena. Va bene, allora mamma reclama il caffè, buona idea, me lo prendo anch'io, riprendete pure, vai Luca. Cazzo, il caffè che si vuole, come fa a berlo, boh, non lo so, vabbè. Capisco che è un fumatore, ma siamo con un fumatore, sei qua uomo, vabbè. Appunto, serve a smorzare la crisi, la scimmia mi sta venendo, capito? Allora, con il caffè attimo. No, poi Luca, peraltro noi lo beviamo ormai solo decaffeinato il caffè. Ah, allora vai d'accordo con me. Perché io già non dormo la notte, no? Per una questione, secondo me, psicologica. Poi vabbè, ti spiegherò di persona, se capita. Ho perso il filo, vabbè, lo prendo il caffeinato perché già non dormo di mio, se lo prendo il caffeinato addio. Allora senti, il caffè potrebbe avere. Ma tua mamma è allettata, Marco, no? Sì, allettata già si può alzare, certo le fanno male le anche, lei usa l'ambulatore, capito lui? Però si può alzare, con fatica ma si può alzare, va in bagno, va in cucina, quando deve far danno già si alza, diciamo. Ma lo stesso fa fatica ad alzarsi, vabbè, vai tranquillo, non c'è problema. E beh, già, a casa non sei uscito oggi. No, e io sai, ci regola Biugia, non ti vogliamo anche dire, volevo uscire stamattina, anche se c'avevo gente a pranzo, vale, vabbè, posso uscire, ma poi sono andato a vedere, mi sono tutto già abbattuto, ho fatto la luce, tutto un gatto, vado a vedere, stava piovendo di rotto, cazzo. Ho dovuto portare il cane con la pioggia, mi sono goduto in fuso e vabbè, è una giornata un po' di coso, ma un po' strana, dai, oggi. Vabbè, poi c'avevo gente a casa, quindi se ci siamo distratti lo stesso, abbiamo scherzato il riso e via. Già va bene, e ieri mi hai invitato un amico, l'ho invitato a pranzo, carne di cavolo e pancetta. Poi avevo fatto un po' di verdura tagliato, finocchi, coso, lattuga, olive, c'erano carciofini, cose così, cipolline, e niente, ci siamo fatti due risate, ci siamo stati tipo un frega, boia. Questa tipo li buttava le olive dentro la, in mezzo alle tette. Ma c'erano anche loro? Sì, tre donne. Erano tre donne e tre uomini. Ma al mare, perché ti ho visto su Facebook che hai detto che c'era il mare bello. Dentro un circolo ero. Ah, è tutto il circo. No, pensavo. E quando è quella del mare che le fa? È una baviccia. Ah, cappagatto. Io mi ritratto svetti anch'io, metto qualche cosa di passato. Perché mi scrive sempre Facebook, non è più messo nulla nella storia, si dà tanto che non metti niente, ma a me fa sapere le cose mie, non è che mi piace assai. Qualche cosa di sfuggita la metto, ma non mi interessa far sapere i cavolbi agli altri. Vabbè. A momenti, non è mai a momenti, non me la fottino da ogni bocco. Dipende da come mi sale. C'è un difettuccio al baracchino oggi, boh. Sai, va bene lo smitter. Ha detto, boh, che strano. Ho agganciato, mi scendeva. Poi ho visto che c'è uno spezzone mollato nel baracchino. L'altra volta perché ho fatto il cambio con il Typhoon, fare la prova. Adesso siamo messi a posto. Spero che stia andando bene, non lo so. Ce n'era uno invece, è Typhoon 2, su, boh, non mi ricordo se su Market Primo, e lo stavo mandando a 150 euro. Poi c'era un Kenwood più un altro apparecchio 270 euro, ma era di Napoli, mi stava già attirando la storia. Un Jackson più un Kenwood 140. E Napoli lascia tempo che trova. E infatti l'ho scartato su quello, perché stavo già non appresso. Oh, io sciocca degna. Alla fine uno deve essere affidabile. Adesso ti faccio un esempio, quel tipo che mi aveva venduto questo qua, che sta fatto le foto, non si vedevano i graffi. Adesso una volta me li ha dati tu i tappi, i coperchi.